No, sul 9 non potevi entrare per fare questione, dovevi entrare solo per questione di emergenza. E diverse volte ho chiamato l'ambulanza per un incidente stradale, però purtroppo era morto già col ragazzo. È successo lì dove c'è il ponte, quel ponticello che va dalla 131 verso Plattamona, per andare verso Plattamona all'incrocio della morte. Hanno investito questo ragazzo in moto e l'ha ammazzato là proprio. C'era un veterinario lì, che aveva lo stetoscopio, tutto quanto, ha controllato, ha detto guarda, mi sa che è morto, però per ogni evenienza chiamate l'ambulanza, l'abbiamo chiamata, l'ho fatta arrivare io, e purtroppo però non c'era nulla da fare. Peccato, purtroppo anche quelle sono cose brutte, dai, però vabbè, segnalare con la radio prima era già si poteva fare, già lo immagino, magari in una città come Sassari c'era anche da fare, nei paesi meno, però io mi ricordo quando ero a Bonorra, che ero ragazzo, mi avevo creato un dipolo in terrazza, avevo un terrazzo grande, capito, aperto, per cui questo dipolo, capito, fatto, cioè avevo le misure, 5 metri e non mi ricordo quanto era, 2 e mezzo da una parte, 2 e mezzo, poi ne avevo fatto uno più grande, poi avevo anche un'altra antenna, e cioè, beccavi gente nei paesi vicini, capito, che aveva la radio, capito, io da Bonorra tranquillamente mi collegavo di sera con Ozieri, Mores si vede in linea d'aria da Bonorra, quindi era facile arrivarci, addirittura arrivavo sino a Badesi, parlavo con questo di Badesi quasi tutte le notti, con Santiago 7-8, lui mi sentiva bene, evidentemente era favorevole, e avevo quel dipolo lì che era fenomenale, poi mi si era rotto, allora avevo un altro dipolo, però di quelli comprati pronti, capito, e l'ho tenuto almeno una decina d'anni, mi ricordo che di notte rientravo e stavo a parlare alla radio sino alle 3, alle 4 del mattino a volte, il sabato, perché c'era gente che ce l'aveva in macchina, gente che si prendeva la macchina e se ne andava in punti alti, capito, per fare i collegamenti con altri paesi, capito, si parlava da un paese all'altro, ma adesso non c'è più nessuno. Ah, dico, che cosa facevamo noi? Ci trovavamo tutti al quadrato, lì al quadrato, giocavamo a pallone, lì nello spiazzo, io una volta mi ricordo che ho portato il formaggio con i vermi, un altro ha portato il vino, abbiamo mangiato sul cofano della macchina, tanto per dirti, no, tutto quello che facevamo. Poi ero scritto Radio Club Nord Sardegna, dove si facevano caccia al tesoro, gite, c'era la sede dove andavi, c'erano donne, ragazze, si giocava a tombola, si giocava a carte, si mangiava la ferita tutti insieme, era una cosa diversa. Poi le cartoline, praticamente, quando facevi di ex, arrivavano le cartoline, arrivavano alla sede, poi Giulio Colombano, che era il presidente, ti chiamava, dopo lui vedi che c'è una QSL per te e te la dava, capito? Sì, già mi ricordo, io più di una volta ne ho fatto quando era Bonorva di collegamenti lontani, mi ricordo che parlavo con Punta Raisi in Sicilia, Palermo, Taranto, quando c'era propagazione d'estate, no? Addirittura avevo fatto un collegamento sui Pirenei, su un paesino, e questo mi aveva mandato la cartolina che prima le avevo conservate per tanti anni, ne avevo proprio una mazzetta di collegamenti, in la Grecia avevo collegato, insomma posti anche lontani, un po' in tutta Europa, Francia, Germania, Olanda, poi non mi ricordo sicuramente le ho perse, le avrò buttate perché le avevo messe in garage a Bonorra e poi da lì chi se ne ricorda dove sono finite, ma ne avevo tante anch'io. Io ce l'ho ancora, Carlo, ce l'ho ancora dentro una scatola di scarpe, una scatola di scarpe piena di QSL, e l'ho fatta con Londra, con la Spagna, con la Francia, col Belgio, cioè, con Londra l'ho fatta dal quadrato, non proprio dal quadrato, dal parcheggio delle 15, ho parlato con Londra, avevo un lineamento da 30 watt, ve lo ricordo ancora, che avevo vinto una lotteria che aveva fatto Tonino Kawasaki, aveva fatto questa lotteria per i CB. Io avevo vinto secondo primo un lineamento da 30 watt. Allora erano buoni e quindi avevi pensato bene di metterteli in macchina qui 30 watt. Sì, stavo uscendo con una Pacto da 5 watt con il linearetto e ho parlato con Londra e immaginati tu, mi è arrivata la QSL e tutto quanto. Sì, è così, io lo stesso a Monorra praticamente poi gli ultimi anni che ci sono stato a casa ero solo perché i miei genitori si erano trasferiti a Sassari e noi la casa l'abbiamo tenuta per tanti anni, capito? Però c'ero solo io che rientravo il fine settimana, capito? E praticamente rientravo a casa a mezzanotte, eccetera, e da mezzanotte in poi accendevi la radio e trovavi sempre gente, ma a volte sono rimasto a parlare anche sino alle 4 o alle 5 del mattino, capito? E adesso una cosa del genere, non, se esci di notte così a luna di notte accendi, no, non c'è proprio nessuno. Io anche alle 7 sono rimasto, alle 7 del mattino, perché da noi a Sassari c'erano le gare, capito? Attaccavano lineari da 1000 watt, chi pompava di più, chi parlava con Urbia, chi parlava con la zona di Coso, l'hai nominata poco fa, Badesi, con la zona di Badesi, chi arrivava più forte, facevano le gare, io mi divertivo a ascoltare anche. Tanti. Capito, caro. Guarda Claudio, segnale come l'altro giorno, bello forte ma la radio è molto bassa, quindi ti rilancio Gianni e così ti dà anche un riscontro Gianni che ha lo strumentino lui sulla radio. Ciao, chiedo Ruggito, ti sento a malapena io. Sei basso anche di segnale da me. Noi sei 5 di segnale del Radio 1 proprio, lo secondo solo che mi sposto. Sì Claudio, no, qua tu a me mi arrivi Santiago 9, la radio è bassa, però è comprensibile, capito? È una radio 2, capito? Però il segnale arrivi forte, mi arrivi Santiago 9 qua, quindi vuol dire che la radio sta andando bene con i suoi 4 watt, però è il microfono che deve avere qualche piccolo problema, anche se io ti sento e ti sento tranquillamente. Carlo, sì. Di Gianni, sta parlando Claudio. E io non lo so. Sì, Claudio, infatti Gianni adesso mi stava chiamando e nemmeno ti sentiva perché ha ripreso e quindi ha detto aspetta che c'è Claudio che sta parlando perché mi ha detto che neanche ti sentiva, capito? Sì, Claudio, fai pure tutte le prove, già siamo qua comunque. Ti rilancio Gianni, vediamo se ti sente di nuovo. Claudio, ma non so perché ti ostino a usare sempre questa radio che non funziona, usa quelle buone, così si può fare il QSO, se no non si può fare il QSO, con questa radio qui ti sento, non ti sento, buttale via quelle che non servono, le non capisco quello che dice perché si porta dietro gli splatter. Ah, Claudio, già te lo saluto io Gianni, dai, ci sentiamo alle prossime, dai, fatti sentire con il Kenwood che con quello sei una bomba almeno, ci sentiamo alle prossime, Gianni ti saluta Claudio che ha chiuso e praticamente stava facendo delle prove perché lo vuole mettere a posto, mi ha detto che se trova un microfono buono magari se lo mette in macchina questo, capito, e quindi sta facendo delle cosettine eccetera. Ci ascolterà Gianni. Carlo, ti ha salutato Claudio. Ciao Claudio, scusa ma avevo girato canale perché sentivo degli splatter, volevo vedere chi era, capito? E niente, dai, ho capito chi era, li ho avvisati che stava sperando, se no sentivo anche da Ruggito. Sul 9 sono? No, sono sul 30. Perché io ho girato sul 9 e sentivo degli splatter là. No, sono sul 30, Tonino ha detto che viene subito qua. Ok. No, Claudio ha detto che sta provando questa radio perché praticamente ha intenzione di mettersela in macchina, ovviamente troverà un microfono che funziona meglio, capito? Quindi era così in condizioni precarie stasera. Mi ha detto che stava facendo delle cose, sicuramente era tipo in garage dove ha le radio, che eventualmente ci ascoltava, però doveva chiudere, che doveva finire di sistemare delle cose. Niente, ti ha salutato, non so se rimaneva in ascolto o chiudeva del tutto. Ciao Claudio, dai, buon QRX se fai QRX, ma ne hai altre migliori di radio, mettiti il Midland, mettiti qualche altra cosa che vada bene, quello mi sa che non esce bene di radio, chissà perché, forse il microfono, prova a metterci un amplificato a vedere. Quella radiolina, hai visto che c'ho in macchina, piccolina, già funziona, lì ci ho sistemato un linearetto, ce l'ho sotto il sedile, capito, quindi schiaccio lì e dovrebbe uscire con una trentina, quarantina di watt quello, non esce più di quei watt. Io nella Opel avevo aperto praticamente il vano dove c'è il camion delle marce, no, lì dove c'è la leva, l'avevo inserito dentro, l'avevo messo un interruttorino piccolo, delicato, proprio con una lucetta rossa, quando lineare l'ho lasciato sopra acceso, poi lo comandavo dall'interruttore dall'esterno, quando lo spegnevi si accendeva la lucetta rossa, lo spegnevi si spegneva la lucetta, quindi sapevo sempre che praticamente era in funzione, là. Quando era in funzione lo sapevo, era bellino, mi andava bene. Dove insomma camuffarlo bene con quel pulsantino lì, e da me era più complicato, nel senso che lo spazio lo avrei pure per mettere una radio più grande, solo che non mi va di ingombrare troppo, quindi con quella piccolina praticamente collego la radio all'accendisigari, e invece per diciamo il linearetto che ho, praticamente cosa ho fatto? Ho fatto il collegamento con i fili, però ho passato tutto sotto i tappetini, non si vede niente, e lui è sotto il sedile, praticamente lo accendo, c'ho sotto il volante uno sportellino dove ci sono i vano fusibili, no? E lì c'era un buchetto, anch'io lì ho messo un interruttore, quindi schiaccio quello e gli do corrente e si accende, capito? Poi se voglio lo spengo e funziona senza lineare. E lui l'ho messo sotto il sedile, che c'è il tappetino, e cosa gli ho attaccato sotto? Del velcro, di quello a strappo, quello adesivo, e me lo tiene fermo là, capito? Quindi io metto la mano sotto il sedile, se voglio lo posso anche accendere da lì, però lo accendo dal pulsantino, capito? È più pratico. Io nella Opel Astra, se c'ho vedo che c'avevo, avevo messo prima tutto nel cassettino, c'avevo il lineare a fianco al baracchino, il lineare praticamente attaccato diretto alla batteria e anche la radio, tutti e due, tutti attaccati direttamente alla batteria, e fili indipendenti, cavi indipendenti, belli grossi, poi ho deciso di fare la scomparsa, e me lo sono fatta scomparsa, me l'ho messo dove ti ho detto. L'interruttorino era di quelli piccoli, non di quelli a tasto, di quelli praticamente che hanno due posizioni, no? Non so come spiegartelo, vabbè, comunque tipo, è presente come erano nella 500 i tasti per accendere le luci eccetera, la 500 vecchia, però piccolino. Sì, quelli a levetta, già ho capito, sì, esatto, mi sa che ho qualcosa anche in garage di quei vecchi interruttori così. Sì, è pratico, no, io ho messo un pulsantino che ho incastrato proprio ci sono due aperture quadrate, no, e sono riuscito a farlo entrare lì, ed è fermo lì, capito, praticamente lì devo spingere per aprire il vano dei fusibili. fusibili, della scatola dei fusibili, no, quella interna che c'è la macchina. Praticamente uno di questi fori dove infili le dita, ciò era della misura esatta di uno di questi interruttori, e l'ho messo lì. E eventualmente ne posso mettere anche uno di quelli che si illumina, ma ho detto meglio non si vede così, e lascio tutto così. Io avevo messo un LED rosso, piccolo piccolo, bellino, anche non faceva anche figura, era bellino, ho messo proprio in visione, in modo che tu vedi quando era sospeso. E l'apparecchio l'avevo lasciato sempre dentro il cassetto, però i fili li ho fatti passare tutti quanti dall'interno, non sotto i tappetini, ma li ho fatti passare tramite, visto le cornici in plastica che ci sono attorno agli sportelli, li ho alzate, li ho fatti passare di sotto, poi li ho fatto fare il giro, insomma ho fatto un bel lavoro. È una cosa ti volevo chiedere Gianni, il ricevitore lo stai usando? Poco, non mi sta più entusiasmando più di tanto, poi ti spiegherò perché in verticale. Prima mi divertivo ad ascoltare altro, adesso non mi entusiasma più di tanto, lo sai. Sì, infatti io prima di fare acquisti così volevo un po' chiedere, sapere cosa c'è, perché penso che da ascoltare sia rimasto anche ben poco, ormai vanno tutti con digitale, DMR e altri programmi del genere. No, sui 40 metri ce n'è, io addirittura 40 metri li ascolto con altro all'altezza. Mi avevano anche regalato un'antenna di quelle di macchina con la base magnetica, e prende meno dell'antenna del tetto, perché abbiamo fatto le prove prima con una e poi con l'altra e si sentiva molto meno. Quindi ho lasciato quella del tetto, gli ho messo il riduttore d'antenna, ogni tanto ascolto, ma non mi entusiasma più di tanto, capisco? Prima mi entusiasmavo perché sentivo diverse cose, capisci a me? Perché l'audio sempre, la radio non è pulita e non il segnale è sempre buono, meglio di prima, mi sa che sei fondo scala, adesso fai un passaggio così vediamo se ti senti anche Gianni. Lascia riscaldare le valvole, magari è quello, non sto scendo chiaro di radio, lascia riscaldare le valvole, magari anche quello lì, magari è dovuto a quello, dai, magari una volta che scalda esce meglio. Caro, stavo dicendo, non mi ricordo. Sì, aspetta che rispondo a Claudio. Sì, adesso col passaggio che hai fatto dopo, Claudio, ti ho sentito meglio. No, stavamo dicendo di cosa si può sentire e cosa non si può sentire adesso col ricevitore, no? Che prima magari riuscivi a sentire più cose, adesso è poca roba, è rimasta. Sì, infatti, non è... Sì, senti i radioamatori, magari quando sono al telefonino che sto guardando internet e roba del genere, me lo metto e li ascolto in sottofondo, no? Però sono quei passaggi corti che fanno, ripetono il nominativo 100 volte, fanno i passaggi corti, senza discorsi molto lunghi, capito? Io preferisco la 27, sinceramente parlando. Lo so, perché magari ci fai quattro chiacchiere, a volte ci passiamo anche delle ore. Vai Claudio, riprendi, così vediamo se hanno scaldato le valvole. Parlando sta. Claudio, se tu si sente il segnale, ma la voce non si è sentita per niente. Adesso telefono a Marcello e faccio andare il camion a Mulos. Io ti ascolto, però la radio non è perfetta, è disturbata, ma non lo so se dipende dal QRM che c'è oppure se dipende dalla radio tua, la sento un po' disturbata la radio. Allora, il segnale è buono, qua è Santiago 9 mi stai arrivando, la radio diciamo è una radio 4 perché forse si sente, non so se c'è qualche ventola attaccato, una sorta di rumore di fondo che ti fa sembrare anche un pochettino saturo, capito? O magari sono troppi watt, non lo so, però non è pulita, ma io già ti ascolto bene. Vabbè, io sempre lo sento così, dai. Non è limpida la radio, comunque già c'è comprensibile, meglio di poco fa, senza ombra di dubbio. Vabbè, riprendi Carlo. Ciao Carlo, ciao Gianni. Ciao Tony. Sto accendendo il forno che scaldo la polenta. Ah, ti metti la polenta con il salsiccione. La radio è buona la mia, Carlo. È un passaggio. passaggio, Tony. 1, 2, 3, trova di Avanti. Un po' compresso, Tony. Il segnale è sempre lo stesso, però la radio non è molto chiara, Tony. E adesso la radio com'è? 1, 2, 3, trova. Allora, se stai usando il gas, abbassa, abbassa il fatto dal power e mettilo, mettilo a metà, dai, a meno di metà, a un quarto, se lo vuoi usare. Guarda un po', 1, 2, 3, prova di modulation. Così va meglio. A te, Carlo, come va? Ora mi facendo quattro chiacchiere, c'è con noi anche Claudio da Muros, che sta provando una radio che ha circa 54 anni, roba vintage, e aveva qualche problemino anche lui col, diciamo col segnale radio, capito, col, col microfono, dai, il segnale è sempre buono, però la radio era un po' non pulita, capito. Adesso te lo rilancio così vediamo se lo senti anche tu, Tonino. Vai, Claudio. Ok, dai, vediamo come mi ascolti adesso, se ho migliorato come segnale radio. 1, 2, 3, prova di modulazione. Comunque, ciao Claudio, ben sentito, e salutami qua a su altri amici, Claudio di me, sono come sono. Ok, qui devo lasciare più o meno così, cosa del baracchino. Avanti Gianni, così è meglio, vai. Come ti ho detto io. Così è, un quarto. Si lascia così. Ma lo sai che già è un maestro di Galax. Fate il break, dammi un controllo già, fa la cortesia. Volevo sapere se, se Claudio di Muro se mi ascoltava. Negativo, California era questa. Ciao Claudio, un rapporto di segnale. Possere, dai, riprendo io. 5-9 più 10 qua, Carlo, stai arrivando alla mia stazione. Ok, non so se, chi c'era poi, non mi ricordo. Ah, io datela anche a me. Segnale, Muros, dammelo anche a me il segnale, a vedere come sta arrivando. Ma adesso non ne ho caramelle, c'ho cioccolati e bu. E pompa tu, pompa. Pompa, pompa, ciao Tony. Ciao Tony. E tu cosa rivedi, Tony? Eh? Cosa stavi facendo tu? La calza, la notte c'è freddo. Eri buon pendi, brudu. Cosa pompo? Ma guarda, non voglio essere un cazzo. Non ne faccio pompa io. Ciao Natalino, ciao. A base di CD a pizzo, no? Mica sono tutta la sera che vi ascolto io, me lo me. E perché non entri alle ciribuffo? Perché io ho le orecchie pelose. Dai, che bedino. Meno male che siamo io e Carlo che teniamo la frequenza in tiri. Non sono entrato per quello, cosa disturbavo, il vostro QSO. Ecco, ci pare. No vabbè, come vuoi, non c'è problema. Avanti Franco, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, buonasera Natalino. Volevo sapere da Claudio come mi ascolta in questo passaggio, cambio. Stavo pilotando un'altra radio, volevo sapere appunto dove stava andando. Tommy, me lo puoi contraccambiare un rapporto? Adesso sì, proprio su... sul D, pensa un po', dimmi sul D, oltre 9.30. Il capo di positivo, Natalino, non so se mi ascolta, ciao Natalino, buonasera. Ciao Fran, non ti ascolto io, no. Tornerati, è tornato. Cosa? Già. Ho detto, si è ritornato il tuo alimentatore, bello restaurato. Capo di positivo, mi lo sto pilotando, lo sto provando, già va bene. E certo che va bene. Tutto restaurato, era un grido, ma era due vici, venite raggiungendo il restaurante. Fondo scala Super 5. Invece Claudio, i passaggi precedenti eri a bomba, anche Super 5 di radio, ma l'ultimo che hai fatto di nuovo problemi di microfono, mi sa, o hai toccato qualcosa. Sì, esatto, adesso va benissimo, adesso o hai qualche contatto, magari come tiri il filo, non lo so, però adesso è arrivato chiaro la radio, capito? Segnale sempre quello, non c'è problema di segnale, è il microfono forse. Tonino lo stesso, prima i primi passaggi non stava uscendo bene, poi come ha regolato Radio Super 5. Franco idem, Gianni non se ne parla, insomma tutti forti mi state arrivando oggi. Io sono più piccolino. 9.25, quasi 9.30 domenica. E adesso fra 1, 2, 3, bla bla bla. E adesso si è attenuato Santiago 6. E se sono attenuato? Senta, c'era tornato 9:05, 9:10, dai. Sono Natalino. Natalino, bene, ti arriva, c'è. Non si intendi, no! Natura sente, ti faccia la crabbati, non si sente niente qua. Dunque, ho capito bene poco fa cosa ha detto Natalino di Carlo e di Gianni? No, Tony, cosa ha detto? Non l'abbiamo sentito. No, Natalino, sono lavorato, ho detto che Carlo sta facendo il consiglio a Gianni. Oh, iaia. Mami. Non li vuoi di voi. Tony, mica sei ragazzo, io non lo so, questo Tonino è proprio anche di Brigi, è malizioso, Voi avete messo in malizia, io così, guarda, tranquillo, ero come un chirichetto. Sì, ma stamattina abbiamo fatto il servizio fotografico. perché ancora te l'ho fatto, no? Esso, guarda. Ma i bomboloni. Comunque la prima ha detto, io mi stavo ascoltando quando Carlo ha fatto il corso a Gianni. Ma cosa, stava facendo il corso con Gianni, ha detto. Il corso mi ha fatto. Ma finita. Ti piace la ciabatta con la crema, no? Io ho provato la foto. E tu cosa ti hai mangiato? Con un galloncino? No, io non era galloncino, era la sandra con la marmellata. E tu l'ho preso io, tu non volevi, non volevi, poi hai voluto e io volevo ancora, ti ho fatto la foto. Cosa so, vuol dire cornetto in francese? E cosa si dice cornetto? È curvato comunque. Sì, perché a te ti piace così, curvato. Già, dove? Perché dico Bobo, ma se ne può fare in cacinellare che si dominano. Riprendi Teodoro Girito, avanti. Scappa, ok, grazie. Ciao, allora, Claudio, buon corretti, salutami a K2 e la tua bricellona. Buon carico quando lo fai. Fatemi bene. Avanti, Carlo. Ciao, Claudio, ci sentiamo alle prossime, dai. Adesso andava bene quella radio. Quando ha scaldato, va benissimo. Vai, Gianni. Ehi, dai, ciao, Chiodo. Stammi bene, buona carica e buon continuo di serata, dai. Avanti, Franco, California. Cancella, dai, riprendo io. Ciao Claudio, buon query tipo a tutto e ce la riascoltare i prossimi. Rilanciamo il Mikey a Natalino. Vai Natalino. Ciao Claudio, se mi stai ascoltando. Alle prossime. Avanti Carlo. Franco, con quanti watt stai uscendo? Qua, non ti dico bugie, sto uscendo con 20 watt modulati. Sta arrivando a bomba. Radio Super 5. Quindi la radio va bene, buona. Ottima. Che microfono stai usando, Fra? Sto usando l'MC60 adesso. Ma sì, col che? K. Ah, va quello lì, 20, dopo modulati saranno 50. Ah, boh. Non lo so quanto sono. E picchiata 50, dai. Insomma, non più disgraziato ciò che io, 10 watt e baracchino, e boh. No, ferma. 4 watt. Il baracchino più 300 di lineare su 310. Ma cosa non ne ho 300 watt, cioè 300 watt effettivi vi sto dando. Ma non le dico, l'ho sentito io stamattina il discorso, zitto. Sì, ma quando va in porto poi si va normale, quindi c'ho sempre la roba mia io. Te l'ha abbassato, te l'ha. Ti ha abbassato il watt prima di dartelo. No, non è, no. E c'è quando si va. Ah, ho fatto uno scambio, ma poi metto a fare che a lui si via e basta, capito? Io sono di buona fede. Kappa. Sì, Franco è andata bene, ho fatto tutto il giro, l'alimentatore è passato da me, l'ho restaurato, è andato a te, me l'ho restaurato e poi è ritornato al padrone. Da me era sempre bello conservato, col panno, quindi, beh, diciamo, panno lì, va. Si è pronta la cena, ce la risentiamo, grazie del QSO a tutti, a Gianni in particolare che mi ha sopportato di più stasera. Ciao Natalino, Franco, Tonino, se ci siete più tardi volentieri, quattro chiacchiere le possiamo fare anche dopo, se no a domani. Buonasera a tutti, ascolto il vostro finale e poi me ne vado a cena. Ehi, ciao Carlo, dai, buona carica, non lo so se riaccendo, dai dopo, vediamo un pochettino, dipende dalla voglia. Niente, dai, buona continuazione di serata, avanti, e grazie per il questione, è sempre un piacere, non è una sopportazione. Avanti, Natalino. Ok, ciao Carlo, dai, buon proseguo, buon tutto, alle prossime. Riprendi Franco. Marcella, dai, riprendo io. Ciao Claudio, buon carica, buon tutto, e ce la riascolto alle prossimine, se coincide più tardi. Vediamo un po' se non vado a vedere un po' di TV. Tutto lì, vai Tony. Ok, ciao Carlo, sei stato, sì, mangio qualcosa fuori acceso, vai, non c'è problema. Buon lunedì, buon carico, buon tutto, a dopo. Bene, bene, signori, il 85 caro, mi sto dipendendo da un pezzo di telegiornale. Mi avvento, mi mangio qualcosa, poi riaccendo, per caso. Se ci sentiamo, è bene, se ho pazienza, mi sentiamo con chi c'è. Ok, ciao Gianni, ciao Natalino e ciao Franco. Ci sentiamo alle prossime, eventuali anche amici d'ascolto. Ciao a tutti, qualità dalla parte mia, momentaneo. Ciao, ciao. Ciao, ciao Tony, ci sentiamo, dai. Buona carica con la Raffaele, dai, annuncio anche io il mio corretti, dai, per causa carica. Ciao a tutti, grazie per il questione e buona serata. Ah, riprendo io per salutare Gianni, Tonino, e annuncio anche io il mio QRT. Ci sentiamo alle prossime, ciao Franco. Quel rettangolo per me, perché ho anche sforato. Ci sentiamo alle prossime, dai. Buonasera, dai, riprendo io che chiudo anche io e vado a vedere un po' di TV. Ciao Natalino, saluta il QR, saluta il QRA e buon carico, buon tutto, se lo devi fare. E saluto Tonino e tutti gli eventuali SWL che sono in ascolto. Per me QRT, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao.